andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oggi ho ricevuto via Twitter, mi hanno mandato un manifesto bellissimo che è stato fatto dal governo australiano, me lo sono subito appeso dietro nell'armadio che ho dietro la sedia, quella minchia di spazio che mi mettono a disposizione qui a Radio 24. Il manifesto è del governo australiano, il governo australiano che lo ha pubblicato in tutte le lingue dei paesi limitrofi, cioè in tutte le lingue più o meno asiatiche dei paesi limitrofi, ed è una splendida avvertenza a tutti quelli che vogliono avvicinarsi al suolo australiano. Questo cartello, che ha un grande titolo, No Way, No Way, lo potete capire tutti, no? No Way, con la mappa dell'Australia cerchiata da un divieto di ingresso in Australia. Così bisognerebbe fare. Alfano, impara dal governo australiano. Impara dal governo australiano. C'è il mare solcato da una scialuppa, da un boat, da un battello. Non farai dell'Australia la tua casa, non entrare in Australia, questo c'è scritto grosso. I paesi seri si comportano in questo modo. Poi uno può scegliere anche un'alternativa, un'altra maniera per combattere l'immigrazione, cioè quello di farli entrare tutti. Il governo australiano ha introdotto le misure di protezione più dure esistenti al mondo. Questo l'ha scritto il governo, non è che lo dico io, eh? L'ha scritto il governo. Prima ti sei compiaciuto, bellissimo, eccitato, stupendo. Mi ha eccitato moltissimo, porcheria. Sì, sì, un orgasmo ho avuto quasi un orgasmo, sì. Beh, ti basta poco però. Se tu prendi un battello. Sono cose strane che ti eccitano. Certo. Se tu prendi l'isoletta lì in Australia, storicamente terra di migranti, dovrebbero ricordarsi da dove allora, vengono gli australiani che hanno i canguri, che rompono le bale, quei quattro canguri lì. Dai, ma cosa devono proteggere? Stai prendendo per il culo il Ma australiano, sì, ma è un un'isola popolo. Ma gli australiani, ma vabbè, ma d'accordo. Ma lì, intanto per arrivarci lì ci vuole un sacco aspetta, di tempo. Aspetta, questa cosa posto meraviglioso dal punto di vista naturalistico. Poi? Ma sono una ex colonia. E venivano mandati lì i criminali. Vabbè, ma Australia, stai parlando del passato, capito? Se tu prendi un battello senza un permesso, without a visa, sì. Non propaganda. Finirai in Australia, no, non perché, arriverai in Australia. Perché secondo te aspetta, il manifesto blocca i migranti? Viene tradotto e diffuso in tutti i paesi. Aspetta, ogni battello che cerca di entrare illegalmente in Australia sarà intercettato e con sicurezza, dicono anche con sicurezza, portato al di là delle acque australiane. Cioè, non è che fanno come noi, che li prendono e li portano sulla terra, in Italia. Li prendono e li portano fuori dalle acque. Capito? Chiaro il concetto? Australia Roots, modello grandioso, modello la nota, grandioso. La nota parliamo Australia. Di Genova, modello grandioso. La responsabile della protezione Bravo. Civile. Beh, certo. Fammi un applauso. Gli fammi applausi un applauso. Dei razzisti ti prendi. Bravo. Ma che c'entra? Perché l'Australia Bravo. Sono razzisti? Ma in questo caso prendono un provvedimento. Parenzo sta dicendo idiota. Il governo australiano idiota, un provvedimento che idiota. Sono razzisti. Dunque ambasciata australiana, sì, ecco, non fatemi avvertita in Australia. Parenzo due ma punti. Manco ci vado in Australia. L'Australia è un paese razzista. Ma in questo dillo apertamente, dillo. Perché, ma sì, ma perché vergognati, loro pensano così vergogna, di bloccare i migranti. Secondo te se beccano i manifesti. Infatti li bloccano. Ma a parte, secondo se mettono i manifesti non ci arrivano. Dai, ma su, guarda che è curioso. Ma che mica, poi ci sono le navi, ma mica i manifesti è l'unica cosa che fanno. Dai, su. Parenzo, due punti, l'Australia è razzista. Benissimo, no? Ma c'hanno i canguri, dai. I canguri, una presa per il culo continua. Mangiano anche il canguro, mangiano, figure. La responsabile della protezione civile di Genova apostrofa così i giornalisti. Senti, sapete che ha preso un premio di circa 7.000 euro per aver rimesso a posto la città? In realtà il premio è riferito non proprio alle robe dell'alluvione. Però certo, amici miei, sentite. Siete degli sciacalli, mi fate schifo. Siete degli sciacalli avete detto ma non cose mi vergogno, ma non avete una dignità. Ma una dignità ce l'avete, io ce l'ho. Io ce l'ho. Per favore, lasciami. Ma voi ce l'avete. Ai giornalisti dice: siete degli sciacalli, mi fate schifo, non avete dignità. Perché chiedono conto del premio e dice anche: me lo sono meritata. Pensa di esserselo meritato. Ma lei pensa di esserselo meritato il suo premio di produzione? Io non prendo nessun premio di produzione. Non prende neanche la 14ª? No. Ah, e come mai? Perché sono un collaboratore, ma lei pensa di essersi meritato il suo? Il mio premio? Sì. Certo, ma poi il premio non lo valuto io, ma chi me lo dà? Quindi dovete chiederlo a loro. Ho cercato di leggere i motivi, sono spiegati su alcuni giornali, i motivi per cui questa signora Bocchiardo e altre persone, tra cui tra l'altro un indagato per un'altra alluvione, hanno preso i premi. Devo dire la verità, sono tutte cose, come mi suggeriva qualcuno in redazione, sono tutte cose che queste persone qui, questi quattro che hanno preso i premi, questi quattro dirigenti del Comune di Genova, dovrebbero fare di norma, cioè andare nelle scuole a insegnare come ci si comporta in caso di alluvione, cioè fa parte del loro lavoro normale. Sì, certo. Come sempre succede nel pubblico, questi premi sono un modo per aumentare lo stipendio. Qualche volta vengono dati ad alcuni dirigenti, qualche volta vengono dati ad altri dirigenti, a turno vengono dati a tutti. Oh, Grillo contestato oggi. Sentite una bella carrellata di Grillo. Problemi a spalare, Fabio. Monta. Per avere qualche scotta devi starne a stare a lavorare. È una buona visione del futuro. Ci sei tu, dalla ci sono parte. Io e ci sono io, le istituzioni dovrebbero essere qua. Se voi siete il futuro, aprite gli occhi. Andate a far spalare. Siete il futuro, aprite gli occhi. Tutti a spalare. Loro devono venire urlando. Tutti. Vabbè, per quel poco che si capisce, insomma, gli dicono vai a spalare, un po' di insulti, un po' di cose. Io devo dire la verità, due cose. La prima, i politici, e Grillo è un politico, è il capo di un movimento politico, dovrebbero tenersi lontani da chi va a spalare, lontani dal centro di Genova, facciano fare il loro lavoro alla protezione civile, alla polizia, ai volontari, eccetera. Perché Grillo è andato lì? A fare cosa? Che cosa è andato a fare? A sparare contro Renzi, contro Burlando, già lo può fare dal palco del Circo Massimo, dal blog, eccetera, eccetera. Dunque, inutile andare là. Secondo, però, anche gli insulti nei confronti di Grillo mi sembrano ridicoli. No. Perché no, scusa? Hai detto bene all'inizio, poi come al solito sei scivolato, ma è benissimo, è trattato come un politico come tutti gli altri. Ora, in un momento di tensione come questo, non è che lui va a fare la passerella perché lui è quello fuori dalla politica. Cosa pensava? Che lo accogliessero con un abbraccio? E lui andava lì così, con l'iPad, tirate il fango su con l'iPad. E quelli dicevano, ma come con l'iPad, amico mio, qui c'è il fango e è morto qualcuno. Ma la rete, c'è l'iPad, l'iPhone, l'iTunes, iCloud. Dice, ma qual è il cloud? Qua c'è tutto il fango, amico mio. Cioè, non è che può andare a coglionare la gente lì in giro. È un politico come tutti gli altri e si è preso gli scapaccioni da questi qui arrabbiati con tutti. Benvenuto tra i politici, Grillo. Benvenuto. Welcome. Oh, è stato il giorno, anzi ieri è stata la nottata di lussuria ad Arcore, Nottata. Tra le tante cose dice nottata. Che Berlusconi è andato a cena ad Arcore. Nottata. Lei ha fatto mezzanotte come minimo. Nottata. No, era fatto anche mezzanotte. È una cena comunque, elegante, comunque, normale. Attenzione, lussuria, oltre ad aver detto che Berlusconi ha promesso, ha fatto eccetera eccetera, ha detto anche che è stata leccata in bocca da Dudu. Beh, questa è bella, non è male. Subito Dudu mi ha cominciato, prima subito mi ha fatto festa, poi mi ha cominciato a leccare in bocca, che ho detto tesoro, ma schifo, senza neanche un mazzo di fiori, dico, ma subito al sodo questo Dudu, infatti sì. Mamma mia, devo dire a buon gusto questo Dudu. Io dico una cosa, Berlusconi è passato, ti ricordi quando incontrava anche o diceva di incontrare leader di estrema destra italiana così per cercare di fare una grande coalizione, è passato da questi signori dell'estrema destra molto omofobi eccetera a lussuria, no, che io la viene direi leccata da Dudu. Tutto ciò è fantastico, però voglio presentarti un signore. È passata da Putin a Vladimir. Da Vladimir. Sì. Era carina questa, Putin, no? Che sarà anche in Italia tra poco. È venuta così, carina però. Bellissimo, da Putin, sì, ma l'ho già detta questa. Chi l'ha detta? Sì, abbiamo già detto, da Vladimir a Vladimir, dai. Ti voglio presentare un signore però, signore che sicuramente tu amerai molto. Siamo che pronti. Ha fatto un il gesto di Genova, no, con aspetta, cui aspetta, aspetta, no. Ha fatto un gesto molto controverso nei giorni scorsi, cioè ha creato un piccolo altarino, stai calmo, un piccolo altarino a Ponte Sant'Angelo a Roma, zona centralissima di Roma, vicino al Vaticano. Oh, calma, in onore di Erich Priebke, te lo ricordi Priebke? Sì, un anno dalla sua morte, l'avvocato Paolo Giachini, che è l'avvocato della famiglia Priebke, buonasera. Buonasera. Buonasera avvocato Giachini. Senta, ma che cosa ha fatto esattamente lei? Poi è stato rimosso questo altarino dal sindaco. Cosa è successo esattamente? Avete fatto una piccola messa lì? Avete messo dei mazzi di fiori? Che è successo a Ponte Sant'Angelo? Ce lo riassuma. Semplicemente in seguito al fatto che la curia ha vietato di celebrare messe funebri per il signor Priebke, quindi in qualche modo è stato violato l'articolo 19 della Costituzione, che garantisce diritto di culto a tutti. Sì. E noi abbiamo deciso di celebrare queste messe funebri all'aperto, all'aria aperta, e abbiamo scelto un luogo che era molto caro al signor Priebke, un luogo simbolico. Sì. Perché è caro? Ponte di Roma, perché è caro? Molto bello. Perché era un luogo caro, Giachini? Si poteva buttare giù al ponte, eccetera. Quindi chiunque vorrà nel futuro, rendere un momento di silenzio, un momento di concentrazione, un pensiero al signor Silvio, lo potrà fare tranquillamente in questo posto. Questo anche in considerazione del fatto che la sua salma oggi è stata posta in un luogo inaccessibile. Meno inaccessibile o segreto? Aspetta un attimo, inaccessibile o segreto? Aspetta un corno, aspetta. Io volevo sapere una cosa da Giachini. Innanzitutto, perché a Prib, che era molto caro Ponte Sant'Angelo, non ho capito. Guardi, diciamo che lui amava passeggiare già nel 41 in questo ponte, intanto per le sue caratteristiche artistiche. Cioè amava il signor Priebke, che è ex. Poi, in qualche modo il ponte, che già per i romani era un simbolo di unione tra ciò che è fisico e ciò che non è più fisico, il pontifex era un sacerdote romano, e, diciamo, è stato a teatro dell'assedio del papato durante il sacco di Roma degli Anzichenecchi. Ma che c'entra questo? Si è sempre sentito un po' un assediato, anche quando nella Roma nella Roma assediata dagli alleati, loro erano rimasti un pugno di uomini. Allora, che cosa è rimasto? Voi avete messo un altarino là, un qualcosa? No, semplicemente è stato qualcosa è stato rimosso, una piccola lapide c'era. Ma molto discreta, insomma, di fatto. Ma è stata tolta poi? Meno male. No, tolta cosa? No, le messe non si dicono, ma non si tolgono. La lapide, una piccola... No, nessuna lapide, no, solo fiori e basta. Qui alla Zanzara l'uomo che ha rievocato l'ex SS, anzi no, l'SS Priebke, che ha rivendicato fino alla fine, fino alla morte un anno fa, la sua appartenenza all'SS, al nazismo eccetera, lo ha ricordato con una piccola messa a Ponte Sant'Angelo, una specie di altarino, così c'è scritto sui giornali, improvvisato, che in realtà non c'è nulla di stabile. Però scusi, io adesso prima di far Ma non entrare... li hanno arrestati tutti. Aspetta, prima di far entrare in campo Parenzo, avvocato Giachini, io volevo sapere una cosa. Secondo lei, con tutte le polemiche che ci sono state, era il caso di fare questa cerimonia per ricordare un anno dopo Priebke? Cioè, questa storia forse è meglio o no? Cioè, chi c'era? Prima cosa, le polemiche non devono limitare i diritti assoluti che la Costituzione concede, e poi sarebbe troppo facile con delle polemiche imporre agli altri con la prepotenza determinate cose. Se io voglio ricordare un morto, ho diritto come tutti quanti di ricordarlo. Sì, a casa tua lo ricordi. Adesso non mi faccio spaventare dalle polemiche. Però scusi, quello è solo a casa sua, lo ricorda a casa sua, guardi, Giachini, l'avvocato quello mio. Quello è solo a casa sua, avvocato. Di chi vuole rimestare il tono. Sì, però lo ricordi a casa sua, caro avvocato? Lo ricordi a casa sua? A pensare agli onori che si fanno a un morto. Però scusi, avvocato, il punto fondamentale è che quello è solo pubblico. Lei, se vuole ricordare pubblico, lo può ricordare a casa sua. Se lo fa in pubblico, in un ponte importante. Ma guardi, il ricordo religioso si fa nelle chiese. Beh, se la chiesa vi ha detto di no, prendetevela con la chiesa, scusi. No, e difatti me la prendo con la chiesa e lo faccio in pubblico. Se qualcuno protesta, vuol dire che la sua idea sarà differente. Io il diritto religioso, il diritto delle manifestazioni religiose, alle pratiche religiose è assoluto, non si può vietare. No, d'accordo, però è quello, se la chiesa vi ha detto di no, lei ha una sua polemica con la chiesa, in pubblico significa che... Io il mio rapporto è col Padre Eterno, non con i preti sono corrotti, lo sappiamo benissimo. Corrotti che vuol dire? Quindi la chiesa è notoriamente corrotta, insomma, basta leggere i giornali, quindi per corruzione ha soggiaciuto... a certe forme di ipocrisia, perché per la loro verità, quindi un magari erano incazzati per Pribke, che non è stato accettato in chiesa per motivi politici, e quindi noi abbiamo all'aria aperta, al suolo pubblico, io sono italiano, vivo in questo suolo e faccio in questo suolo ciò che d'accordo, ma lei addirittura ha invitato la gente ad andare lì a posare chi vuole per Pribke, una specie di corona di fiori, un ricordo, una cosa, è una cosa un po' diversa, vuole creare un luogo di di ritrovo ma perché nei cimiteri non si va a onorare i morti? Ho capito, ma lei non può creare a Ponte Sant'Angelo un cimitero come gli altri perché è stato posto in un luogo segreto inaccessibile, l'onore del resto tenga conto di una cosa, che andare a Ponte Sant'Angelo rispettare un minuto di silenzio e pensare a una persona defunta non si fa male a nessuno. Beh, dipende, se comincia a diventare un luogo di culto. Tutto pretestuoso, tutto pretesti per continuare a creare degli stati di violenza, di aggressività, di aggressione. Violenza la creata, da un certo punto di vista, Parenzo, da un certo punto di vista, non c'è nessun punto di vista. Ricordare Pribke, sì, vada a casa sua, tranquillo, lo fa. Se lo fa in luogo pubblico, la prossima volta ci chiami e io mando la polizia e facciamo una bella retata, così li portiamo. Ma retata di che? Per aver ricordato uno? Li segnaliamo tutti, per aver ricordato un criminale nazista. Vabbè, certamente. Uno lo può ricordare. Non può, lo va a casa sua, lo può fare. In pubblico, vabbè, no, in pubblico, perché apologia di fascismo. Dipende come lo ricorda. Lo a casa sua. Lo fa a casa sua, va benissimo. A casa sua. Ma tu ci vuoi passare da là? Se ci passo col cagnolino per fare la pipì, quello sicuro. Vabbè, lì. Adesso è esagerato, dai. Sicuro col cagnolino, così tutto passo di là. Perché se lui ha il diritto di ricordare un criminale nazista che manco la chiesa vuole ricordare, e lo faccio a casa sua e nessuno glielo impedisce, noi gli mandiamo in luogo pubblico. Se lo cane. Fa in un luogo pubblico ricordando il comandante, aperta parentesi, nazista, criminale, assassino, chiusa parentesi. Vabbè, questo l'hai già detto. Ricordiamolo, sì? Non lo può fare. Non può. Giacchini, e quindi io passo col cagnolino, così. Giacchini, come risponde a questo? Non c'è da rispondere, c'è da prendere atto. Il signore che sta parlando può fare quello che crede. Io non ho il suo spirito di aggressione, quindi non c'è nessuna aggressione, guardi. I cani nei suoi pensieri o nelle sue cose. Polizia. Quello che posso dire, mi colpisce solo la grande ipocrisia di questo, perché noi siamo alleati di americani che torturano in Iraq le persone, di israeliani che ammazzano molto peggio di come ha ucciso Pribke nelle Ardeatine, perché lì lei sta dicendo senza pietà, civili eccetera, e poi questo signore che parla così, perché non ci racconta cosa fanno gli americani per il mondo, ecco, si interessa un po'. Lei sta dicendo che Israele si comporta ha detto questo. Aspetta, lei ha detto, Giacchini, che Israele si comporta peggio di come si è comportato Pribke. Secondo lei ammazzare donne e bambini, guardi, lei ha detto che si è comportato peggio di Pribke. Ha fatto una rappresaglia, erano solo uomini, attenzione, questi ammazzano bambini, donne senza pietà, lo hanno fatto durante la guerra su Hiroshima, l'hanno fatto su Dresda, e noi questa gente le trattiamo come eroi. Lei sta dicendo che Israele sta e leggerlo a simbolo del male. Israele sta compiendo un genocidio, un genocidio peggio di quello che a far pisciare i cagnolini, bravi, questo è pazzo. Si continui mentre questi ammazzano le persone, i civili. Ma quale maglietta di Radio 24? Cioè, ma io voglio la maglietta dei razzi, la sto aspettando. Cioè, la maglietta Radio 24, ma che ci devo fare con la maglietta Radio 24? Voglio la maglietta dei razzi. Ho sentito questa mattina il sindaco di Verona, Flavio Tosi, dire delle cosine interessanti. Per esempio, questo è un avviso a Salvini, eh. Salvini, beh, bisogna che senti quello che dice il sindaco di Verona Tosi. È impossibile, dice Tosi, uscire dall'euro. Io dico che nulla è impossibile nella vita. Se uno vuole, nulla è impossibile, posto che convenga, ovviamente, no? Per cui dire impossibile è sbagliato, però siccome la Lega, insieme adesso forse ai nuovi arrivati dei 5 Stelle, hanno questa linea contro l'euro per uscire dall'euro, che va benissimo per carità, ecco, ascoltare Tosi, c'è un problema forse nella Lega. Renzi fa all'annuncite, ma Grillo le spara veramente grossolane, perché grosse grossolane, perché Grillo sa benissimo che l'Italia, aderendo all'euro attraverso il trattato di Maastricht, aderito a un meccanismo dove se un paese vuole uscire dall'euro deve avere l'unanimità di tutti gli altri che gli dicono si può uscire, deve contrattare con gli altri per poterlo fare, primo. Secondo, la proposta che lui dice andiamo in Parlamento con questa proposta di referendum per è una proposta incostituzionale e quindi lui sa benissimo che non può andare da nessuna parte. Altre cose sentite, il professor Settis, una delle, considerato uno dei più grandi studiosi di questo paese, no? Poi, sì, poi vai a vedere naturalmente, no? Uno, un grande studioso, beni culturali, eccetera, eccetera. Il professor Settis, senti che puttanata che dice, che minchiata colossale, colossale. Siccome, dice lui, che Renzi decide tutto da solo praticamente, come tra il 22 e il 43, cioè come durante il fascismo, il professor Settis, cioè io dico tante puttanate, per carità, dico tante puttanate dalla mattina alla sera, magari dico inesattezze, ma fa parte di una trasmissione radiofonica, della baraonda che c'era una trasmissione radiofonica, ma il professor Settis, cioè non dico i nostri amici camionisti che probabilmente su queste cose ne sanno di più del professor Settis, i nostri amici tassisti, i nostri amici ascoltatori che non hanno le lauree, il professor Settis. Beh, avrà fatto anche lui una iperbole. Sentiamo. Sul fatto che tutto debba essere deciso in ultimo dal Presidente del Consiglio, in Italia c'è un precedente, è durato dal 1922 al 1943. Non vorrei tornare a una situazione. Cioè, sta paragonando Renzi a Mussolini? No. Non vorrei tornare, c'è il pericolo secondo lui, no, che torniamo. Ha detto no. No, non vorrei tornare. No. Sì, ho capito, ma. Non vorrei tornare nella logica dove c'è uno solo al comando. Ma questo dice. Perché la nostra è una democrazia parlamentare. Qual è la logica dove? Ti può non piacere, ti può. Ma è una puttanata. Io pensavo fosse una cosa. Ha ricordato semplicemente che non decide nel nostro paese da solo un uomo. Ma perché adesso decide uno da solo? Perché adesso decide uno da solo? Credo che si riferisse alla vicenda dei Bronzi, immagino. Ma quale Bronzi? Che c'entra? Non so a cosa si riferisse. Parlava di politica, dai, su. Vabbè, comunque. Oh, Della Valle è tornato a parlare sempre dalla 7, programma di Formigli, dicendo. Questa fa ridere. Senti, io non sono un potere forte, signor Della Valle. Beh, no. Ah, non è un potere forte. Certo, se sentite il potere forte come potere antico della finanza italiana, no. Ecco, però uno che c'ha una parte del Corriere della Sera, una squadra di calcio, un'azienda, va dalla mattina in azienda importante. Perché... va dalla mattina alla sera in televisione, che è un potere debole. Cioè, è un potere debole. È amico del signor Montezemolo, è un potere. Adesso Della Valle è un potere debole. Ma no, ma non è più nella vecchia logica del potere forte, medio, banca, non esiste più ma quella no, roba ho capito, là ma no? Della Valle non è può... un imprenditore che ha un suo peso, che ha un suo peso per quel che dice, per quel che produce, per quel che fa, per i posti di lavoro che crea, qualcuno lo ascolta, qualcun Vabbè, altro sentiamo, lo sbeffeggia come te, ma non è un potere forte. Come no, fortissimo, Della Valle. No, forte, fortissimo, fortissimo, no, forte, fortissimo, fortissimo, proprio sta scardinando tutto, no! Proprio sta mettendo in discussione i poteri questo. Forti erano altri ma lascia una volta medio la banca, i banchieri. Della Valle sono poteri è forti. Un uomo potente in Italia, punto. È vero o no? E questo per me significa potere forte. È un imprenditore ascoltato, senti, ma anche sbeffeggiato da te in particolare. Senti, no, ma sbeffeggiato. Beh, sì. oggi non ci sono. Ma lei non è un potere forte, Marchionne, lei è un potere debole. Che potere forte? Non... Lei è un potere. Io sono un potere a casa mia, sono un potere a casa mia e sono uno che quando compra una cosa la conta. Invece i poteri forti su vecchie frasi, diciamo oramai note a tutti, dicevano che le azioni si pesano e non si comprano. Vabbè, ma insomma di. Vabbè, poi ritorna. Mi sembra ineccepibile, sì, però. Beh, certo, si torna ancora una volta con gli agnelli che telano. Gli agnelli che telano, senti. Io voglio stare con questi italiani qua. Non sto con una famiglia, gli agnelli che hanno succhiato al paese tutto quello che potevano negli ultimi decenni e nel momento in cui, e nel momento in cui c'era bisogno di dare una mano al paese hanno telato. Io non sto con questa gente qua. Diciamo lei con la Fiat ce l'ha, non, siete, non ci siete, vengano più a dire, siete avversari. Non ci venga più a dire nessuno che l'esempio che noi dobbiamo tenere in mente sono gli agnelli. Quella è una cosa. Beh, poi insomma con gli agnelli ci avete. Con gli agnelli. Ma chi dice che è un esempio? Bravo, ma chi dice che è un esempio? Chi dice che è un esempio? Semplicemente dove si pagano meno tasse, una multinazionale, un'azienda che vuole investire, un'azienda che vuole stare sul mercato, basta, va, basta, punto basta. E basta. Si abbassino le tasse in Italia invece di rompere i coglioni a Marchionne. Della Valle, dai, su, che Digi sta 3. Qui, fatica ogni giorno, su. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il disastro di Genova, l'accusa di Napolitano in curia nei confronti dell'ambiente e inerzie locali, troppe lungaggini in progetti già finanziati. Grillo contestato a Genova dagli angeli del fango, vieni a fare la passerella, spala insieme con noi, l'ex comico fischiato ma ho la coscienza a posto. Fango, fiumi imbizzarriti, danni gravissimi ai telefoni in tilt, ora è Parma ad essere sott'acqua, Genova senza pioggia si continua a spalare. Dopo le violente piogge, due frane si sono abbattute sulle case a Gavi e Arquata, i due centri dell'Alessandrino più colpiti, sfollati e frazioni isolate. La manovra taglia tasse piace alla Confindustria, ma è bocciata dalla CGIL. Renzi, nessuna divergenza con Padoan, domani in Consiglio dei Ministri. Vladimir Luxuri ad Arcole, da Berlusconi e la Pascale, Silvio mi ha detto che sosterrà una legge sulle unioni civili sul modello di quella tedesca. La bandiera nera dell'ISIS non sventola più sulla collina alle porte di Kobani, peshmerga curdi sono riusciti a far arretrare gli uomini del califfo. Giachini, scusi, siamo sempre noi, la Zanzara. Sì. No, volevo completare il discorso di prima, discorso di prima. Lei aveva detto una cosa molto forte, secondo me, cioè che gli israeliani stanno commettendo un genocidio in Palestina, sì o no? No, io non ho parlato di genocidio, io ho parlato di ipocrisia nel momento in cui... Ma lo stanno commettendo o no, secondo lei? No, il genocidio è una parola giuridicamente, ha un suo valore, cioè si significa... sterminio di una genia. Invece là c'è solo assassinio volontario di civili. Assassinio volontario di civili. Lei ha detto che è peggio dei nazisti, allora. No, non peggio dei, io non ho mai parlato dei nazisti. Guardi, io ho parlato di Erich Priebke. Ho detto che Erich Priebke in tempo di guerra ebbe un ordine da Hitler, ordine a cui tutte le persone, tra l'altro quelli che fanno fare pipì ai cani, avrebbero ubbidito come agnelli. Sì. Lui ha dovuto ubbidire. E dunque si è comportato meglio di come si comportano oggi? No, non c'è meglio. Lui beh, ha fatto solo quello. Non meglio, ha fatto quello che gli hanno detto di fare. Dunque è peggio quello che sta facendo Israele. È peggio quello che sta facendo Israele. Scusi, le colpe che possono essere giuridicamente imputate a lui. Vabbè. Sono meno gravi il nipotino, di quelle che sì, sono, il che sono di Hitler. Imputabili a chi ha tirato una bomba atomica su Hiroshima, uccidendo donne e bambini. Ma era la guerra? Nipotino. Che cosa faceva secondo lei? Giocava Monopoli? No, il nipotino parla, il nipotino di Prip che parla. Su, però il scusi, lei ha fatto un paragone molto forte. Anziché giocare col sonaglio, gioca. Lei ha detto una cosa molto forte: Prip che Hitler, ha fatto molto meno di quello che fanno oggi gli israeliani e i palestinesi. Il nipotino questo di Prip. Scusi, ma lei dai. Se vuole minimizzare il fatto che si uccidono civili, donne, non sto minimizzando. In un pensa, modo barbaro, quelli, lo faccia pure. Pensi a quelli faccio. Uccisi. Scusi, mi faccia finire. Non c'è da finire, c'è da chiamare l'ambulanza. Scusi, io ho detto una verità lampante. Ho detto che alle Ardeatine non morirono donne e bambini, ma fu eseguita una rappresaglia per ordine di Hitler su uomini. Mentre ho detto che indiscriminatamente appunto, Israele, uccidono a parte... donne e bambini in Israele, nella fascia di Gaza, hanno cominciato. Beh, lei ha fatto un paragone, dunque, come dire, sta dicendo che Israele commette dei crimini rispetto a Pribke. Questo c'è. Rispetto a Israele, Pribke è un angioletto, questo lei sta dicendo. Allora, scusi, io le sto dicendo Pribke è un esecutore, come sono esecutori. È un assassino, non c'entra niente. Ma scusi, mi faccia parlare perché se parla solo lei. Ma ha parlato da mezz'ora dicendo delle cose inaudite, caro il mio avvocato. Sì, prima lei, mi fa l'altarino, prima mi fa l'altarino per ricordare un assassino, mi mette i fiori e già questo lo trovo abominevole, perché fossi stato lì avrei chiamato vabbè, la polizia e le avrei fatto smantellare tutto. Poi mi fa il paragone tra Pribke e lo Stato Democratico di Israele che combatte il terrorismo. Ma se lei non è da internare, per questo, per cosa la interniamo? Ma perché non è democratico? Non il è nipotino, il nipotino di Hitler. Aspetta, lei è uno di quelli che favorisce chi ammazza donne e bambini. Ma detto dal nipotino di Goebbels e di questi qui, ma di che ma stai zitto un attimo, Giachini, non ho capito, Israele non è una democrazia? Ma lei vuole scherzare? Perché ma non è una democrazia. C'è discriminazione razziale, votano solo quelli che sono ebrei in Israele. Ma questo è pazzo, i non è vero. Non ebrei ma sono vero. Assolutamente ignorati. Cioè lei dice che è uno stato razzista. Ma cosa state, lei sta dicendo che è uno stato razzista? Ah, certamente, ma è, ma ovvio, è una bugia, tutti, ma votano anche gli israeliani palestinesi, ma che dice? Ma lei non sa un cazzo. È uno proprio. Stato razzista, vabbè. Ma votano anche i palestinesi residenti in Israele, ma di che parla? Ma si occupi dei nazisti, amici suoi! Ma di che cosa sta parlando? Metta lì! Ma si occupi dei nazisti, amici suoi, che per fortuna sono anche tutti morti, per fortuna. Senta, lei deve ricondurre ma riconduca il cagnolino a defecare dove deve defecare, altro che ricondurre. Vabbè, a che cosa? A fare l'elogio dei nazisti, l'elogio dei nazisti fa lei. Ma chi cazzo ti ha messo in quel posto? Sei un idiota! In questi casi bisogna solo tacere, se non hai soluzioni politiche, stai zitto, idiota! Allora, tanto per fare capire che clima c'è in Forza Italia, io l'ho percepito ma ieri. Ma dove è finito l'avvocato? No, se n'è andato. Tanto per fare capire che clima c'è in Forza Italia, dopo il selfie tra Vladimir Luxuria, Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, ieri ho parlato con qualche deputato, era incazzatissimo per questa storia qua, perché dice perché? Va bene l'incontro tra... No, quello lo dicono loro, a me che mi frega. No, volevo capire. No, perché? Perché dice che va bene l'incontro tra Pascale e Luxuria, ma quando porti Luxuria ad Arcore dai una istituzionale, cioè molti mica dicono per noi l'avvocato che aspetta, hai sentito prima. Aspetta, ma io sono d'accordo, figurati, non lo dire a me. Molti però dicono, e secondo me un po' hanno ragione, per incontrare Berlusconi noi ci facciamo un mazzo così, ci facciamo un culo così e spesso non ci riusciamo. Arriva Luxuria. Beh, sono noiosi, si vede. Arriva Luxuria, sì, può darsi sicuramente. Si diverte molto, secondo me Berlusconi si diverte molto di più. Ma certo, arriva Luxuria e incontra Berlusconi, selfie con Berlusconi e la Pascale, eccetera, eccetera. Amici miei, però arrendetevi di fronte a questo. Berlusconi si diverte più con Luxuria che con qualcuno che magari gli rompe i coglioni per qualcosa. Secondo me no? È solo divertimento, sai, non è questione politica. Allora, Alessandra, ma scusami, aspetta, diciamola tutta. Aspetta. Ma secondo te, tra un incontro con il nostro amico Bianconi, ad esempio, che gli parla di soldi, di robe, e un incontro con Luxuria, ma chi sceglie lui? Ma tanto Bianconi ha fatto una battuta eccezionale oggi. Capito? Una battuta eccezionale, non me la ricordo più qual era. Ah sì, adesso quello che conta è il culo e non più la figa, una cosa del genere. Signor Bianconi questo? Sì, sì. Signor sì. Bianconi. Sì, sì, adesso te la dico bene, appena la recupero te la dico. Non perdiamo nulla. signor Bianconi, il signor Bianconi. Però stavo dicendo un'altra cosa. Alessandra Mussolini ha ritwittato un suo elettore su Twitter che scrive: i selfie di Berlusconi con Luxuria sono abominevoli. Che la base del partito gli dia una svegliata o finiremo nella merda. Luxuria su Berlusconi. Lui mi ha detto che sosterrà le unioni civili alla tedesca di Renzi, quindi riconoscendo anche le adozioni interne, dicendomi che per lui un bambino che viene cresciuto comunque tra due persone anche dello stesso sesso meglio che un orfanotrofio. E poi mi ha detto che non gli piace chiamarlo matrimonio, però insomma l'idea delle unioni civili alla tedesca è qualcosa che lui comunque sosterrà. Cioè, tu capisci, Berlusconi avrebbe promesso a Lussuria l'appoggio pure sulle adozioni. Sulle adozioni. Amici miei di Forza Italia, gente che aborre questa cosa, gente che odia questa cosa, chiamateci, indignatevi se avete ancora le palle. Non con noi, perché io sono favorevole, Allora, Bianconi ha scritto: il culo è la figa del futuro. Ovviamente non ha scritto così. Il C, puntini puntini, è la F del futuro. Sono rivolto Bianconi. Ovviamente al signor Bianconi. Sempre il numero abusivo. Uno. Oggi i preti, alcuni vescovi hanno aperto una parte, il sinodo, sì, alcuni ufficiali, diciamo, chiamiamoli così, ufficiali tra virgolette del Vaticano hanno aperto ai gay, Però io ricordo qualche giorno fa che un vescovo tedesco ha pronunciato questa frase: sì agli omosessuali, ma solo se sono casti. Cioè non devono trombare, secondo me. Se non trombano, se non fanno questo sesso, vale per bene. Tutti però, cioè, ha una sua logica, perché questo vale anche per gli etero, no? Trovi la logica pure in queste porcherie tu. No, non la trovo, ma la posso capire. Ma non la trovo, perché ovviamente non allora, la condivido. Prima degli ascoltatori, però non ho capito in che senso, perché loro non concepiscono il sesso fuori dal matrimonio. Esattamente. Allora, esattamente. Ti voglio far ascoltare prima degli ascoltatori quello che dice. Ma dove è andato quel nazista lì? Ah, oh, se n'è andato, chiedo, che lo vuoi tutta la sera, lo vuoi nazista. No! No, volevo sincerarmi, perché devo portare un cagnolino in zona. Allora, volevo sincerarmi. Tu vai tanto a far pisciare il tuo cagnolino su tutto Ponte Sant'Angelo. No, tanto tutto. Per essere mica sicuro. Così a sfregio. No, se ci sono i fiori per quel signore, no, l'assassino. Qualcosa ci non sarà. I fiori, il cagnolino passa lentamente, così ci ferma. Alza, annusa. Sì. Sento odor di nazismo. Alza la gambetta destra e si guarda intorno, e con autorevolezza e soddisfatto va. Ha detto delle cose tremende su Israele. Allora, Di Battista. L'altro giorno a Circo Massimo ci ha di nuovo regalato la puttanata sulla Grecia all'AIDS. Sentiamola, perché è veramente una stronzata indicibile. Ricordate che già c'è un esempio di questo e si chiama Grecia, dove oggi ci sono generazioni tra 100 euro e dove alcuni cittadini disperati si iniettano il virus dell'AIDS per prendere dei sussidi statali. Qualcuno dice che Bianconi potrebbe aver detto non il culo, ma il C puntino, cioè il cazzo, diciamo, è la... Beh, però non aprirei la discussione. Cosa ha voluto scrivere non Bianconi? Ecco, non cosa l'aprirei. Ha voluto... Andate a controllare cosa ha scritto Bianconi di Forza Italia. Comunque, avete sentito, no? Questa cosa qui che ha detto Di Battista è stata smentita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità qualche mese fa, ma proprio smentita in maniera, un anno fa, in maniera totale. Matteo, provincia di Brescia. Pronto, salve. Vai Matteo, dimmi. Salve, ciao. Intanto volevo dire che mi fate troppo ridere, ma vi dico dopo il perché. E questo discorso di Battista, mi aggancio prima di dire il motivo della telefonata. Parlava del Job Act, non era riferito all'anno scorso sicuramente, perché la no, ha continuato a raccontare, una cosa che non è vera, cioè il fatto che ci siano persone che si sono iniettate l'AIDS per prendere i sussidi di 700 euro in Grecia, una cosa che dice pure il nostro amico Paolo Barnard, ed è una puttanata smentita, ma abbiamo gente che vende un rene per non farci portare via la casa, in Italia non bisogna mica andare tanto lontano. Sì, ho capito, ma questa cosa qui della Grecia è una stronzata, non è vera, appunto. Una stronzata, però parlava del Job Act e del risultato che avremo. Ma il Job Act non darà nessun risultato di disperazione, ma di che stai parlando? Okay, dai, comunque, su. Il motivo della mia chiamata era per il discorso della passerella di Grillo, no? Allora, intanto non era una granché di passerella, perché era vestito come un barbone, c'aveva il casco pure in testa, non si è levato neanche gli occhiali ed era davanti al Palazzo di Giustizia, sì. Non era nessuna passerella. Poi c'erano quattro gatti. Merda, al Circo Massimo da Zucconi. perché era il Circo Massimo. Va a Genova, che avete detto cosa ci fa a Genova, perché ci abita. No, non abita proprio lì. Comunque è andato lì apposta per fare la passerella, dai. È andato lì a fare. Che cosa è andato a fare? Scusa. Al Palazzo di Giustizia. Ma cosa è andato a fare a Genova? Cosa è andato a fare? A depositare la lettera con che in agosto si chiedeva al governo di intervenire perché i lavori non erano stati fatti per il discorso. Ah, la lettera pubblicata dal Foglio ieri, sì. Sì, sì. Cioè lui, io ma guarda, che per me ha tutto il diritto di andare. Secondo me un politico non dovrebbe andare dove ci sono delle catastrofi, che non serve a nulla. A nulla. Questa è la differenza. No, non è al di là del discorso del politico che avete detto che è un politico. Lui è in mezzo alla gente. Non ma quale mezzo alla gente? Si è visto. Ma si è vista la reazione. Volte, ma sì, ma va bene che sia in mezzo alla gente, però non se la può. Non ha paura di niente perché ma... non ma chi ha detto che deve avere paura? Chi è che ha paura di andare in mezzo alla gente? Non ho capito. Il sindaco l'altro giorno è andato. Non mi pare, appunto. Ma non mi pare, lascia stare Brunetta. Non mi pare che Doria si sia sottratto e non abbia affrontato, come dire, la paura e la rabbia della gente. No, non c'è nessun eroe. Grillo non ha fatto l'eroe per andare lì. Nella sua città. Non ha fatto l'eroe. Grazie, Boris, provincia di Monza. Boris. Sì, volevo parlare con Davide, fare una domanda. Visto che Parenzo ha dato dei razzisti, ridicolizzando anche gli australiani per le cose che stanno, che stanno adottando contro l'immigrazione clandestina, ha una posizione molto netta, condivisibile. Però se invece parlassimo delle barche che cercano di avvicinarsi ad Israele. Vabbè, che c'entra? Quando ci sono dei terroristi dentro. Non sto parlando di terroristi, sto parlando di persone, magari. Beh, certo, sono sicuro che Israele avrà delle leggi ferre sull'immigrazione clandestina. È in una situazione molto diversa rispetto all'Italia. Beh, d'altra parte, c'è un paese invece, Arabia, eccetera. Tolto questo, un paese estremamente accogliente invece. Sì, vabbè, adesso. Come no? Vabbè, comunque eritrei, somali, di tutto c'è. Hai dato del razzista al governo. Razzista, mi fa sorridere. Un paese che è stata una colonia e che è stata soprattutto terra di migranti, perché tale è stata ed è l'Australia. È meraviglioso questo manifesto. Oggi fanno questo manifesto che francamente... Allora, senti cosa c'è scritto. Le regole si applicano a tutti, queste regole. Famiglie, bambini, bambini non accompagnati, bambini educated children, cioè bambini con educazione, con formazione e anche... bambini che sono stati, come dire, no, con in dieta scolare oppure no. Stupendo, meraviglioso. Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara. Poi Lussuri ha anche detto che Berlusconi gli ha recitato la poesia di Madre Teresa sugli animali. Cioè, gli ha recitato la poesia. Cioè, Berlusconi è veramente all'ultimo stadio, ragazzi. Cioè, gli ha recitato la poesia di Madre Teresa sugli animali. Ma questo non mi sembra strano. Ma dai, ragazzi, ma di che stiamo parlando? È un uomo di compagnia, è andata lì la sera a cena. Ma ho capito, ma la poesia di Madre Teresa. Ma cosa vuol dire? Senti, mi si è parlato subito di animali. Sì, lui mi ha subito detto il numero di persone che ha dei cani o che ha dei gatti, di quanto sia importante anche loro il peso elettorale, e poi mi ha letto una poesia, devo dire, molto bella di Madre Teresa di Calcutta, proprio sui cani, sul fatto che i cani ti vogliono bene comunque, e terminando dicendo che chi ama i cani e chi si avvicina è un po' come anche avvicinarsi a Dio in qualche modo. Allora, ragazzi, la poesia di Madre Teresa di Calcutta, perché amare gli animali, recita così: perché amare gli animali? Perché ti danno tutto senza chiedere niente, perché contro il potere dell'uomo con le armi sono indifesi, perché sono eterni bambini, perché non sanno cos'è l'odio nella guerra, perché non conoscono il denaro e si consolano solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo, perché si fanno capire senza proferire parola, perché il loro sguardo è puro come la loro anima, perché non conoscono l'invidia né il rancore, perché il perdono è ancora naturale in loro, perché sanno amare con lealtà e fedeltà, perché vivono senza avere una lussuosa dimora, perché non comprano l'amore, semplicemente lo aspettano, perché sono nostri compagni, eterni amici, che niente potrà separare, perché sono vivi. Per questo e altre mille cose meritano il nostro amore. Se imparassimo ad amarli come meritano, saremmo molto vicini a Dio. Ecco, io devo dirvi la verità. Non ho mai sentito tante stupidaggini e banalità concentrate in poche righe. Ma è una poesia. Non ho mai sentito. È una poesia. Ma perché Non ho mai sentito. Eppure Berlusconi ha letto queste cose a Luxuria. mattina coi giornali, Corriere della Sera per cominciare. La cronaca fa male, non si può abolire, invece la cultura mi fa sognare. Le pagine economiche sono nere, lo sport è un dramma nazionale, e prima che il giornale sia finito arriva all'improvviso la stangata. C'è Aldo Grasso, oh oh, che ci beh, cari amici della Zanzara, era stato ospite da noi tanto tempo fa. Ritorno di un mito assoluto, ha fatto una canzone addirittura su Aldo Grasso, critico, critico televisivo del Corriere della Sera, all'interno di un album. La canzone si chiama Grasso che cola, l'album Che bellezza, Cristiano Malgioglio. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due, se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare, a chi avrei corteggiato. Però scusami Cristiano, devo dire la verità, devi scegliere me per forza, perché Parenza l'hai visto in televisione, che è? Cioè... Vabbè, ma al buio... lo so, lui e sua sorella, signor Malgioglio, il mio grande pubblico. Sei uno di quegli uomini ai quali non bisogna mai chiedere niente, perché già sai dove deve arrivare, perciò... lo so, però Parenzo al suo, dice che di avere il suo pubblico. Assolutamente. La cosa importante è avere sempre degli uomini molto intelligenti. Io vi seguo, sono felice e grazie perché sono qui con voi stasera. Beh, noi ringraziamo te, caro Cristiano, però voglio sapere subito, poi naturalmente parleremo anche, perché la gente deve sapere che Cristiano Malgioglio non è che sia quello che viene che va solamente in televisione, in certe trasmissioni che dicono, io non sono d'accordo che sia trash. Cristiano Malgioglio è un grande autore di canzoni, c'è anche grande cantante intellettuale italiano, certo. Ma certo, si può definire anche così, certo. Lo possiamo definire, io lo definirei così, uno dei grandi intellettuali di questo tempo, certo, di questo, di Arbasino, di Calvino. Vabbè, certo. Non fa, adesso non pigliare ma per no, il culo. Ma lo dico, no, qui lo dico sinceramente. No, ma sai che cos'è la cosa che mi fa impazzire? Dimmi, che a volte mi associano sempre, io nella mia carriera, adesso festeggio i miei 40 anni di carriera. 40 anni di carriera, sì, e devo dirti, certo, che io ho fatto delle cose bellissime, delle cose bruttissime, delle cose mediocre. La cosa più brutta che hai fatto qual è? La cosa più le cose più brutte mi hanno fatto guadagnare un sacco di soldi, ad esempio che ne so, gelato al cioccolato. E beh, com'era? Ah, stupenda. Oppure Sbucciami, oppure Ho fatto l'amore con me, scritta per la Mandalina. Però ho fatto delle cose belle per Mina, dall'importante finire, ancora. E certo, sogno. Ma com'era gelato? Lo sai che io la canto tuttora. Gelato al cioccolato dolce, un po' salato. Beh, ragazzi, siamo al top. Mia figlia impazzisce. Cristiano, mia figlia sì, lo so. Impazzisce lo per so. Questa canzone, gelato al cioccolato. È pazza di questa canzone. Ma pensa quanti soldi ha guadagnato Pupo e quante ne guadagna ancora in Russia. A me non mi arriva neanche un cacchio. Da, niente, non ti arriva niente. No, non mi arriva niente. Lui va lì, va a fare i concerti e naturalmente lo pagano anche molto bene. Cioè, tu sei stato pagato solamente per aver composto quella canzone e poi Nisba. Mi pagano molto in Italia, quello sì, la SIAE, perché poi è un brano che è un brano che si ascolta spesso. Cioè, gelato al cioccolato, canti malissimo. Dolce gelato al cioccolato. Beh, ragazzi, è stupenda. Gelato al cioccolato è meravigliosa. Che io cosa brutta? Messo neanche la mia firma in questo brano, avevo messo un mio pseudonimo perché in quel periodo ero molto popolare con Mina. Sì, quando avevo scritto L'importante è finire, ancora il mio discografico mi ha detto: Cristiano, ma che cosa fai con questo qua? Cambia, metti un pseudonimo, eccetera. Però non sono pentito. Dici però è una delle cose più brutte che hai fatto? Che vuol dire? No, perché non parlano mai quando io non parlano mai delle mie canzoni di successo, quelle che io amo in modo particolare, i brani che tutti i testi che ho scritto per Roberto Carlos, a partire dalla mia solitudine sei tu, stupenda, che Luchino Visconti l'aveva inserita nel film Gruppo di Famiglia in un interno, ecco. Malgioglio è quello. Ma anche tu, amico mio, devi fare, caro Cristiano, devi solo cantare, ormai basta con sta televisione, cioè... No, guardi, beh, la televisione io devo dire, perché te dai soldi. No, io devo dire grazie a Rai 1 che mi ha fatto crescere, sono molto felice, grazie adesso a Mediaset con Chiambretti. Però mi piacerebbe lavorare con voi, perché voi due siete pazzeschi. Siamo qui, fare la vostra valletta lì. Adesso non esageriamo. Però qualche canzoncino ogni tanto mi piacerebbe. Molto, qualche volta vi vengo invece a trovare, perché voi siete pazzeschi. Senti, dimmi tutte le cattiverie che vuoi, amore. Dimmi, Cristiano, adesso questo incontro tra Luxuria e Berlusconi che c'è stato adesso. Sì. Perché adesso voglio dire, sono tutte e due dei gran paraculi. Diciamola chiaramente, cioè, quanto ci credono. Sii sincero, tira fuori il Malgioglio che è in te. No, sai, dunque ti spiego subito, sembra molto imbarazzante dire certe cose o meno, ma se questa situazione può aiutare però... gli omosessuali, tutti noi, è una cosa bellissima. Io sinceramente non mi sposerei mai con un uomo e non adotterei mai dei bambini. Ma sei contrario all'adozione? No, beh certo sono contrario all'adozione, anche se due omosessuali possono essere delle madri pazzesche, perché il bambino deve nascere con una donna, è importante, non so, la parola mamma è troppo importante. Ma nemmeno due uomini allora, cioè nemmeno due donne allora? Non lo so, io non però lo so. Però sei contrario. Sono contrario, perché non lo so, due donne, due uomini, però due uomini, due donne possono dare un affetto e enorme. Il matrimonio nemmeno? Ma il matrimonio, ma che matrimonio? Ma non durano neanche i matrimoni normali. Io non e dunque questa battaglia per il matrimonio è una battaglia di retroguardia, una battaglia antica, una battaglia superata. Sì, perché quando due persone si vogliono bene, si amano, io ho dei miei amici che stanno insieme da 20, che non, da 20, che non gliene anni, frega nulla di sposare. Non gliene frega niente, assolutamente. Allora, torniamo tra un attimo, pubblicità con Cristiano Malgioglio, un mito, gelato al cioccolato. Voglio un attimo, 10 secondi, ti prego, Cristiano, non ti voglio utilizzare come macchietta, per carità. Però gelato al cioccolato per andare in pubblicità, ti prego. Gelato al cioccolato, gelato. Vabbè. Vai, te vai la canto tu. Io. Vai. Non arriva. Vai, parti tu. Parti. Non arriva. Parti. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato. Tu gelato al cioccolato. Rimani così. Io e Viola, mia figlia, sì. la cantiamo praticamente ogni giorno. Addirittura? Sì, praticamente, lui è fissato. Prima di pranzo, top. No, la sera, ogni giorno c'è un piccolo pezzo di gelato al cioccolato, che però ha tutta una sua, gelato al cioccolato ha tutta anche uno, una sua, sì. Dici una seconda lettura, beh, tu dici. Certo, una seconda lettura. C'è la lettura, beh, no. Non dovete essere maliziosi, non è vero, beh, non è vero, non c'è una seconda lettura, ti giuro. Veramente non c'è. È come la seconda lettura dell'importante è finire, che dice che non si chiamava l'importante è finire ma diversamente. No, assolutamente non c'è. Celebra i 40 anni di attività Cristiano Malgioglio con questo disco, ospite questa sera della Zanzara. Ma sentiamo un attimo, ho solo 30 secondi. Dico, perché ma radio. Perché adesso gli vuoi far fare l'inizio? No, metti quella che hai messo prima, questa roba della TV, questo pezzettino, metti 30 secondi, è radio, la gente deve rilassarsi un attimo. Ma io vorrei parlare molto, vorrei parlare tantissimo con voi, vi verrò a trovare molto presto se mi volete. Senti, come no, Cristiano, voglio dirti una cosa. Fai però, sentire un pezzo, sì, di sta canzone per capire di cosa stiamo parlando. Su, ma cosa? Perché tu sei appassionato di queste cose, Aldo Grasso, no, queste cose. No, ma mi diverte, non l'ho neanche sentita bene, l'ho sentita distrattamente, mi diverte la musicalità. No, ma la cosa che mi fa impazzire, perché voglio dire Aldo Grasso, che io adoro come critico, che io non sono trash, ma sono cool. Cool, cioè, da non confondere con culo. No, ti prego. Per carità. Cool è interessante. Anche cool. Voi siete cool perché siete due numeri uno, siete molto interessanti. Siamo cool. Chi siamo ascolta cool. non va in un'altra radio. Dai, quello non c'è dubbio. Senti un attimo. Captate. Senti un attimo, Cristiano, però io voglio chiederti una cosa su Lussuria, signor, perché tempo fa il signor Lussuria disse cosa su di te. Siccome tu sei contro il matrimonio, dice, perché sei Malgioglio contro il matrimonio? Perché nessuno se lo piglia. Beh, si pigliano lei, che è di una bellezza incredibile. Beh, dici che... Ma tu te lo piglieresti uno come Lussuria? Vabbè, amore, ho altri gusti. Comunque noi siamo molto amici, gli voglio troppo bene. Ma perché? Io e Lussuria ci possiamo dire di tutto. Vi potete dire di tutto. Di ma tutto. Non sei un po' invidioso che è andato da Berlusconi con la Pascale, che è diventato, grazie a Lussuria, Berlusconi è diventato il paladino dell'unione gay? Io ricordo che fino a 3 anni fa, qualcuno ricorda su Twitter, diceva che la famiglia è centrale, mai riunioni gay equiparate e non ci sarà l'adozione né per i singoli né delle coppie gay. C'è stata una conversione a 360 gradi da Berlusconi. Sai che cos'è, tesoro? Io rispetto tutti, per l'amor di Dio, può andare a mangiare anche in casa di Putin, non c'è nessun problema. Però infatti ci andrà quasi. Speriamo. speriamo invece che facciano qualcosa contro l'omofobia, che è molto importante. Io fra l'altro ti volevo dire, dimmi, che ho fatto un servizio fotografico adesso a Madrid con questo grande fotografo Sanchez, che ha scelto 10 personaggi più importanti d'Europa, sì, dove io per la prima volta sono vestito da trans, pazzesco, con tacco veramente, 16 veramente. E naturalmente uscirà questa grande pubblicità, un Malgioglio che sembra una specie di Victor Victoria, sono talmente bello che quasi vorrei andare in televisione così, ma non mi piglieranno mai. Perché? No, scherzo, comunque ho voluto fare questa cosa contro l'omofobia, perché l'omofobia è una cosa orribile. Io, come tu sai bene, io ogni anno vado su a Cuba da Mariella Castro, la figlia del presidente, dove fa questa marcia contro l'omofobia, e mi piace molto dove questi ragazzi sono così. Cuba è meglio dell'Italia da questo punto di vista? Sicuramente sì, è molto meglio dell'Occidente. Io penso che Mariella Castro stia facendo un lavoro meraviglioso. È una dittatura, però. Io di politica non è che me ne intendo, tesoro. Però questo non occorre la politica, basta vedere, no? No, però per quanto riguarda per i diritti degli omosessuali, fino a pochi anni fa tu lo sai che venivano sbattuti in carcere. E adesso invece? E grazie a Mariella Castro queste cose ormai non succedono più. E io vado spesso su, vedo questi qua. Cioè sei i razzi di Cuba, sei come i razzi di Cuba, come razzi vai in Corea del Nord, tu vai a... No, ma io vado perché io amo Cuba, vado a Cuba perché io ho i miei amici musicisti. Ma Castro come sta? Non lo so, perché io penso che stia bene. Cioè Cuba, dal punto di vista dei gay, tu dici è molto meglio dell'Italia. Sicuramente sì, in questo sì, da 2-3 anni sì. Guarda, dico una cosa, Mariella sta facendo un lavoro incredibile. Mariella, veramente incredibile. E i cubani come sono? Chi, i cubani? Gli uomini. Ah, non lo so, non ho mai avuto. Beh, manco un cubano è avuto. Scusa, ma perché mi metti in imbarazzo? Questo quando siamo soli, io e te. Io siamo alla Zanzara qui, amico mio. Qualche cosa si deve confessare qui alla Zanzara. Io sono un uomo molto tranquillo. A me basta che mi dai un po' di mochito, una chitarra e dei musicisti, io sono l'uomo più felice del mondo. E niente sesso? No, non ho bisogno di andare a Cuba, amore. Beh, certo. A Cuba poi. È... Amore ti chiama sempre. Io sono pazzo di lui. Cristiano. No, va benissimo. Io adoro che la gente sappia. Quella tua intervista su Dagospia, pazzesca. Amico mio, ma amore, ancora. Mi piacerebbe. Mi chiama amore Cruciani. Va bene, basta che si sappia. Chiamarvi amore. Io sono felice che tu mi chiami così. Sono felice. Devo chiamare sempre così. Se non ti chiamassi così, non sarei sincero. Che ti è piaciuto di quell'intervista? Dimmi la verità. Vi lascio da solo. Amore ancora. Vedi? Amore, scusa, ma che non lo chiama amore, sei diventato geloso anche tu? No, io guarda, geloso, cara Malgioglia, no. Perché la chiami Malgioglia? Ma perché io ho altri gusti, diciamo. Ditemi tutto quello che volete. Senti, ma è vero che hai due egiziani a casa tua che fanno le pulizie? Io guardo molto la TV Al Jazeera. Ah, e come? Ma capisci? Perché ormai mi sono talmente abituato alla TV Al Jazeera che non posso farne a meno. Pensa che vedo anche X Factor. Ma perché? Ma non riesco a capire niente. Beh, ci sono delle immagini pazzesche. Tipo la CNN. Ormai sono abituato. Se vado su adesso a casa mia, ci sono loro che guardano Al Jazeera. Ma che fanno questi due egiziani a casa tua? Scusa, sono... fanno le pulizie, non ho capito io. Beh, io non dico più niente. Cosa vuoi? Sono belli? No, amore, non sono due ragazze. Sono marito e moglie. Tranquilla. Mi tengo dei ragazzi a casa. Ma che due belle donne mi piacerebbe molto tenermele, perché io amo molto le donne, tu lo sai? Ma sei mai stato con una donna tu? Come? Sei mai stato con una donna nella tua vita? Io con una donna, con una, con 100, tesoro. Ah, ma per cui all'inizio eri a voile et à vapeur, come si dice in francese. No, sai? Ero più à vapeur che à voile. Ah, più à vapeur che à voile. Vedi, questa espressione la conosce pure Cristiano, che è un grande uomo di cultura, come io dico. È un grandissimo uomo di cultura. L'espressione à voile et à vapeur deve essere usata invece di dire bisex. È una parola brutta, orrenda. Certo. No, ma bisogna dire a voile e a vapore, cioè si va a vela e a vapore, che poi quale sarebbe la vela? L'uomo sarebbe la vela? Quello è una cosa privata, cioè quando tu dici vado più a vapore. Comunque, che sia l'amore non è che deve essere l'amore sessuale, per me è qualsiasi cosa. In questo momento sto parlando con voi e sono molto felice, questo è anche però amore, Cristiano, capito? Scusa un attimo, sai che oggi per esempio è uscita una notizia clamorosa che due signori di una certa età davanti al Papa hanno detto che cosa che vi ha unito insieme dopo tanti anni di matrimonio, e davanti al Papa hanno detto una cosa molto chiara: il sesso ci ha tenuto uniti, il sesso. Bisogna fare sesso sempre. Ma tu dici? Ma certo, perché tu non fai fai sesso, quante volte farai? Una volta a settimana lo farai o no? Adesso ho perso l'abitudine, però quando mi butto lo faccio una volta al giorno. Beh, perché hai perso l'abitudine, che vuol dire? Che hai un po' di tempo? No, ho perso l'abitudine perché c'ho tante cose per la testa. Ma poi non è che il sesso è stato importante nella mia vita. Ma bisogna farlo qualche volta anche in maniera così, senza pensarci. Bisogna farlo per mantenersi. Per fare dei grandi esercizi, quello sì. Sì, per stare a posto con la diciamo, tanto ho fatto questa roba. E quando si ama, a mio avviso il sesso è molto importante perché ti lascia qualcosa. Senti, un'ultima cosa, caro Cristiano, ma tu la parola frocio la utilizzi? Io sì, moltissimo. No, perché mi dà fastidio. Tu pensa che ho lasciato l'isola dei famosi quanto Apicella disse, mi ha detto ricchione, e sì. Io mi sono trovato così confuso. Beh, se avessi usato la parola gay magari, beh, l'accetto, è una cosa normale, ma io era talmente volgare, poi era anche molto stanco, che sono scoppiata a piangere, sono vergognato, terribile, per il mio nipotino Ricchione, eccetera. Vabbè, ma Ricchione è una cosa dialettale, si è vergognato, incredibile, bravo, è volgare. Però frocio io lo uso, perché tra di loro tu lo sai benissimo, si utilizza tra gli omosessuali la parola froci, eccetera, si utilizza, dai. Ma te i gay pride fanno schifo? Non è che mi fanno schifo, no, perché mi cioè fanno i carri, io non amo il carnevale, che amo il carnevale diversamente, a me mi piace. E cos'è che cos'è il problema? Qual che è? Se ci fossero i gay pride normali, eccetera, questi gay o i trans in costume da bagno che fanno non lo so, io lo trovo molto confuso. Ecco, che andassero su veramente a Cuba, perché c'è questa marcia bellissima, pacifica. Vabbè, Cuba, non c'è tutto questo clamore, no, non mi piace tutto questo in mezzo alle clamore. Città non ti piaccio, no, senti, no, ma no, lussuria no, una cosa bisogna, ma se, bisogna, secondo bisogna te avere anche, bisogna avere anche un pochettino di pudore, per esempio due uomini che si baciano per strada, non io non piace. È che sono uno, non sono un moralista, per l'amore di Dio, che sta parlando con uno che di moralista non l'è mai, che ecco, no, perché anche i bambini che camminano per strada con il proprio familiare, perché non bisogna avere un po' di riservatezza? Di rispetto, la riservatezza è una cosa importante, sicuramente, chissà, adesso molti omosessuali ti magari criticheranno, tutti quanti contro di me. No, non è giusto, perché poi ognuno la pensa come vuole, siamo talmente liberi, però un po' di pudore, se avessimo un po' di pudore, penso che avremmo tantissimi risultati. Senti, un'ultima cosa, secondo te lussuria si fa un po' di pubblicità con questa storia di Berlusconi, eccetera? Ma non lo so, lei è una battagliera, lei ci crede molto e sono contento, anch'io ci credo molto. E la Pascale perché fa così? Secondo te qualcuno sospetta che abbia delle così dei gusti sessuali un po' per ma sai, sospetti, c'è sai così, c'è tanta gente che dice delle grandi cacchiate, non lo so. E nella conversione di Berlusconi ci credi? Come? Nella conversione di Berlusconi ai gay ci credi? Guarda, io spero che lui possa fare qualcosa, se facesse qualcosa sarei molto felice. Va bene. Sarei molto felice anch'io, sinceramente. Grandissimo, rimettetevi Grasso che Cola. Ciao Cristiano, ciao, presto, caro. Vediamoci presto, ciao. Voi, forte, eh? Ciao, Grasso che Cola. Ciao, Malgioglia. Mi sveglio la mattina coi giornali, Corriere della Sera per cominciare, la cronaca fa male, non si può abolire, invece la cultura mi fa sognare, le pagine economiche sono nere, lo sport è un dramma nazionale, e prima che il giornale sia finito, arriva all'improvviso la stangata, c'è Aldo Grasso. La Zanzara. Allora ragazzi, ricordate il caso del ragazzino 17enne di Roma, pakistano? Ragazzino 17enne di Roma, già in carcere, arrestato perché ha picchiato selvaggiamente un pakistano, no? Bene, è stato arrestato oggi anche il padre, perché incitò il figlio a picchiare l'uomo e ha anche minacciato dei testimoni dell'omicidio, probabilmente per non fargli dire delle cose, per non fare dire a questi testimoni delle cose. È stato arrestato. Era questo qui? Era di? Torpignattara. No, ma era italiano? Italiano. Italianissimo, anzi, romanissimo. Allora, questo signore italiano, che incitò il figlio a picchiare l'uomo e minacciò i testimoni, secondo l'accusa ovviamente, e che ha il figlio già in galera, sono entrambi in galera, è stato stato sostenuto, diciamo così, dal famoso conduttore radiofonico che è stato qui ospite, che si chiama Casciani. Ricordate cosa disse Luca Casciani? Luca Casciani, conduttore radiofonico romano che Parenzo ha soprannominato, com'è che hai detto, radio? Radio razzismo, radio odio, il suo programma è da chiudere, io ho detto, e non la radio, attento. Casciani sul Pakistano. Il suo programma. Sentite. Intanto continuano ad arrivare a centinaia e centinaia i vostri messaggi di vicinanza e di sostegno e solidarietà a Daniele, tutti dalla parte di Daniele, tutti dalla parte di Daniele. Ed è brutto, se ci pensate, dire io sono dalla parte di un ragazzo che senza colpa ha ucciso una persona che in Italia non avrebbe dovuto starci, una persona che in Italia era solamente un fastidio, una persona fortemente fastidiosa. Amici miei, ve la ricordate questa uscita di Casciani, eh? Questo signore pakistano, io voglio dire una cosa, io sono contro l'immigrazione clandestina in maniera feroce. Ma sono cosa vuol dire? Aspetta, io sono contro l'immigrazione clandestina. Però non è che si può ammazzare, uno è giustificato se ammazza qualcuno a calci solamente perché questo qua è un clandestino. I clandestini secondo me vanno presi in maniera gentile, vanno presi, rimessi su un aereo e riportati a casa. Punto, basta, molto semplice. Con grande gentilezza, con grande cura, con grande dolcezza, se vogliamo, no? Presi a calci, amici miei, no? E questo signore che cosa fa? Elogia, protegge la famiglia. Pazzesco. Dai. Se non è odio questo, non radio odio, ma la trasmissione odio, che propone odio. Vittorio d'Ancona. Ciao Bruciani, buonasera. Vai, dimmi. Vabbè, mi meraviglio come gli mandano in onda a queste persone a fargli fare. No, ma io sono contrario alla chiusura, eh. Io sono contrario alla chiusura del programma, ma anche non del programma, radio. Sono contrarissimo. Ma è un diffusore di odio. Ma non mi interessa se ha commesso qualche reato, ci sarà. Addirittura, ma l'hai fatto sentire adesso, scusa, ma cosa ha detto questo? Cosa c'entra? Ragioniamo, ma ci sarà un limite alle cose. Se uno dice è giusto pestare un altro, ma ci sarà un limite, no? Ci sarà, c'è l'autorità. Non esiste il limite. È quello che ti sto dicendo. Il limite, certo, è quello che sto dicendo. La legge intervenga, autorità giudiziaria è quello, ma che secondo me non c'è nessuna legge che consente di chiudere una trasmissione anche se uno dice cose di questo tipo. Ma allora qual è il limite? Non esiste. Abbi pietà della logica. Ma che vuol dire? Massacrato, arrestano la bella famigliola, la simpatica famigliola di Torpigna che viene arrestata, i pacifisti di Torpigna romani arrestati perché hanno picchiato questo qui, e arriva un signore dalla radio, da un programma radiofonico, che dice che hanno fatto bene. Ma ci sarà un limite all'istigazione all'odio? Benissimo, no. Venga arrestato per quello. Che c'entra la chiusura della trasmissione? La chiusura del programma? Come, vuoi arrestare il conduttore? Mai? Non ho capito. No, se ha commesso qualche reato? Io sono per chiudere la... Vabbè, è un ma reato. Tu sei l'istigazione. No, tu sei un po' di destra da questo punto di vista. Ma guarda che in contraddizione sei tu, non io. Perché tu addirittura lo vuoi arrestare, dici, no, se c'è un reato. Ho detto se c'è un reato che comporta allora, per l'arresto. Per me c'è l'istigazione all'odio in quel caso. Scusa. Fammi sentire Fabio. Ma è chiaro quello che vuoi dire. Fabio Vicenza. Fabio. Pronto Beppe? Dai, dimmi però Fabio, dai. Sì, allora senti, io volevo dirti una cosa sul fatto di Grillo contestato, no? Sì. Ragazzi, ma che succede qua? Antonio dalla provincia di Cuneo, dai, forza. Allora, buonasera Cruciani. Sì, dimmi. Allora, in merito a Priebke che fosse un delinquente, che fosse un assassino, che fosse tutto quello che, insomma, si è sempre potuto dire, non c'è dubbio, punto e basta. Con una sola diversità, allora c'è un problema, non è un problema. Allora, Priebke era un ufficiale tedesco. Sì, però Italia. Adesso qui non possiamo riesumare la vicenda, no, Priebke, amico mio, stiamo parlando di un'altra cosa qui, del fatto che questo qua ha rievocato su un ponte, cioè in un luogo pubblico, la figura di Priebke. Adesso qui non vogliamo riaprire la questione Priebke, i partigiani, non ce ne frega niente. Siamo nel 2014. Bisogna parlare. No, ma ne parli tu, qua non ne parli, Antonio. Cosa vuoi dire? Brevemente, cosa vuoi dire? Voglio solo dire che allora Priebke lo siamo andati a cercare da tutte le parti del mondo, l'abbiamo condannato e mi sta bene. però i nostri italiani che hanno ammazzato gli altri italiani e si sono mascherati, nascosti dietro la faccia della bandiera e della resistenza, quello vabbè, non è ce l'hai con quelli che hanno fatto la resistenza e che hanno ammazzato altri italiani. Bene, grazie Antonio. Non ce l'ho con loro, non va ce bene, l'ho con loro. Grazie, non ti preoccupare, ciao. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a che cosa? Abbiamo assistito a una serie di intellettuali italiani, e non solo intellettuali, anche giornalisti, politici, eccetera, eccetera, che hanno preso una posizione ben chiara su una vicenda arcinota, cioè dire Fabrizio Corona in carcere. Fabrizio Corona, che non era fotografo, diciamo è manager fotografico, chiamiamolo così, non ha mai scattato una foto, magari l'ha scattata quando era più giovane, insomma vendeva delle foto, faceva il manager e non solo di fotografia. Allora, Fabrizio Corona è in carcere per svariati reati, li voglio ricordare: aggressione a pubblico ufficiale, estorsione e tentata estorsione, estorsione aggravata e trattamento illecito di dati personali, detenzione e spesa di banconote false, detenzione e ricettazione di una pistola. Allora, questi sono i reati per cui è stato condannato il signor Corona. È stato condannato a 9 anni, poi successivamente ridotti a 7. Qualcuno dice: è una pena eccessiva. Il bello è che lo dicono le stesse persone, caro Parenzo, le stesse persone che poi invece invocano, invocano in alcuni casi, non te, non te. Le stesse persone che invece invocano il carcere duro, contro l'amnistia, contro l'indulto. Nel caso di Corona invece si squagliano tutti e dicono: beh no, c'è una pena eccessiva. Io non amo, come dire, infierire sulle persone in carcere, ma qui si è passato il segno dopo Celentano. Cioè si è passato il segno. Cioè, per quale motivo il Presidente della Repubblica dovrebbe concedere la grazia a Fabrizio Corona? Per quale motivo al mondo? C'è un motivo per cui questa grazia andrebbe concessa? Uno, il comportamento in carcere, certamente irreprensibile, però moltissimi hanno dei comportamenti irreprensibili in carcere, no? Moltissime persone. Qual è il motivo? Qual è il motivo? Uno, qual è? Che è bello? No. Che dice, come ha detto 2 giorni fa a quarto grado, sentiamo magari l'audio un po' rovinato che c'è di Fabrizio Corona, come ha detto a quarto grado, liberatemi perché non ho fatto niente rispetto a tutti i porci politici che ci sono, perché questo in sostanza ha detto, che è una cosa odiosa dire, siccome molti hanno fatto peggio di me, io... Sentiamo. Accanimento, fatemi scontare la pena e datemi la possibilità di andare a casa, perché tutta questa pena che ho non me la merito. Mi hanno dato una pena che non esiste in un paese dove quelli che ci comandano hanno fatto molto ma molto peggio di quello che ho fatto io in confronto a loro non ho fatto niente. Quelli che ci comandano hanno fatto di peggio rispetto a quello che ho fatto io, non mi merito questa condanna. Benissimo, ognuno, chiunque è in carcere dice non mi merito questa condanna, no? Cioè non c'è una persona che dice mi merito questa cosa, ce ne sono anche ma poche. Voi mi dovete spiegare un motivo, al di là dei quei tecnicismi, eccetera. Beh, è semplice, però. Cosa è semplice? Io sostengo che è giusto dare la grazia, ma ad esempio. Come fai a sostenere una cosa del genere? Pur avendo detto le peggio come cose, fai? Come quando fai a Corona era libero, ma come fai su a sostenere? Se è uno ti che ricordi, ha scientificamente io lo inseguito molti ricordi, no? È uno che lo ha scientificamente ma inseguito il carcere. Ma io, come sai, penso che il carcere vada usato come estrema ratio. La differenza tra me e te è esattamente... Allora, vabbè, questo signore ha pagato... No, sta non sta, sta pagando, punto. Scusami, pardon. Sta pagando, sì. Ha avuto una pena piuttosto pesante rispetto magari anche a altre persone, ad assassini, a persone che meritano davvero di rimanere dentro. È un accumulo di reati, è un accumulo di reati. Certo che è mia valutazione. La grazia anche questa cosa che paga che più degli assassini, ti posso dire che è una puttanata che paga più degli assassini, non è vero. Non è vero, a parte alcuni casi clamorosi di persone che sono scarcerate. Io penso che il carcere deve essere rieducativo il più delle volte. Ma quello è un altro discorso, non è possibile rieducare. Ma dimmi un motivo per cui Napolitano deve dare la grazia, ma dimmi un motivo che forse ha capito, è più utile che lui stia fuori a fare i servizi sociali. Ma chi lo racconta a tutti quelli che sono in carcere e devono scontare 7 anni per tutti i reati commessi simili a quelli di Corona? Estorsione. Dipende quale tipo di reato, appunto. Nel caso dell'estorsione io penso che possa valere anche per gli altri, mica soltanto per Corona. Ho perché capito. Corona. Però è qui noi offriamo una testimonianza, famoso, anzi, di una persona che si chiama Francesco Chiesa Soprani, e che sostanzialmente ha fatto tante cose nella quanta vita. Quanta gente è? Chi è questi? No, Francesco è una sola persona. Sono 3 ospiti, no, nessuna è uno, puntata. Francesco Chiesa Soprani. È ex socio di Corona, coinvolta anche lui, arrestato in Vallettopoli, conosce molte cose di Corona, lo ringrazio, buonasera. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Ciao, ciao Francesco. Salve. Allora, dimmi una cosa, secondo te perché è giusto invece che Corona sconti tutta la pena? Ma Corona deve scontare tutta la pena, perché come lui ha sempre detto, tra l'altro anche ai vostri microfoni, se fosse finito in galera con dignità avrebbe scontato la sua pena, invece non la sta scontando con dignità. E tra l'altro quello che gli è stato comminato non è una pena eccessiva, perché in quello che la legge prevede lui ha sempre preso meno per ogni reato. Se poi si sono sommati, sono diventati 13 anni, questo non è colpa nostra né colpa sua, sono i reati che ha commesso. Sì, poi Travaglio dice una, scusa un attimo, Travaglio dice una cosa, dice quando ha chiesto per primo la grazia al capo dello Stato e chiedendola, secondo me ha affossato qualsiasi possibilità di Corona di avere la grazia, perché è evidente che di fronte a una richiesta di Travaglio Napolitano comunque non farà mai propria questa battaglia. E lui dice che c'è una nell'estorsione c'è un aggravante che complica la situazione di Corona dal punto di vista della semilibertà, eccetera eccetera, cioè la presenza di una terza persona nel momento in cui sono stati chiesti dei soldi a Trezeguet. Sì, ma questa persona era una figura attiva, cioè l'ignoranza delle persone che chiedono la grazia, da Travaglio per primo a Celentano, e uso la parola ignoranza perché ignorano, ma ignorano anche la sentenza. Avessero letto la sentenza per cui Corona è in galera, starebbero zitti. Questa persona che viene colorata come l'autista di Corona, premetto, io non ho nulla contro Corona. Se Corona esce di galera, io sono felice, nessuno deve stare in galera. Tu hai lavorato con Corona per quanto tempo? Con Corona abbiamo lavorato praticamente fino a quando l'hanno arrestato, a livello di collaborazione societaria dal 2002 al 2004, poi lui ha aperto la Coronas, io ho aperto la mia agenzia di management televisivo, sempre collaborando insieme, perché in Viale Monza al 7 c'era Corona, al 9 c'era Chiesa Soprani, al 6 l'Ele Mora. Però spiegami una cosa, nella vicenda Trezeguet tu come c'entri? Nella vicenda Trezeguet c'entro perché c'ero, perché queste riunioni che venivano pianificate in ufficio per fare queste foto, io ero presente, perché molte volte avevo anche l'idea o lo scoop da consigliare, poi Fabrizio decideva come muoversi. Ti rispondo prima alla domanda che mi hai fatto. Questa figura che viene definita autista non è un autista, va spiegato, è il braccio destro, il braccio armato non in senso con la pistola, in senso figurato, di Fabrizio Corona, che ha un nome e un cognome, si chiama Marco Bonato. Penso che attualmente sia ancora in galera o sarà uscito da poco per i 6 reati, e questo Marco Bonato aveva il compito di andare per primo dalla persona che era stata fotografata, in questo caso Trezeguet, spiegare la situazione: guarda, abbiamo le foto, se tu non le compri le vendiamo al giornale, quindi devi divorziare, di conseguenza ti conviene comprarle. Il giorno dopo o qualche giorno dopo, per avere la risposta da Trezeguet, si presentava Corona con a fianco questa persona che non era autista. Dunque tu dici che Trezeguet era influenzato dalla presenza di questa persona? Ma certo, sicuramente non si sentiva minacciato, perché se Celentano si ferma al discorso, ma Trezeguet ha detto che non si sentiva minacciato, ma una persona che guadagna 4 milioni di euro all'anno e gli vengono chiesti 25 mila euro per non far uscire delle foto mentre è con l'amante, lui paga e ride, oppure non paga, manda a fanculo, scusate il termine, chi gli propone l'affare se ne va, non sarà mai ricattato. Nella sentenza di condanna di Corona c'è scritto che si tratta di un'estorsione subliminale, un'estorsione psicologica, in cui chi è estorto non si sentiva nemmeno estorto. E ancora a casa, Emo. Mi sono lasciato ancora un paio di cose dal Circo Massimo, caro Parenzo, perché non abbiamo sentito bene, per esempio, il nostro idolo Sibilia, signor Sibilia. Sibilia. Già protagonista di altre sortite curiose, no? Sì, sui complotti, cose di questo tipo. Non è quello dei microchip anche, o sbaglio? No, è un altro quello, però insomma siamo in quell'ambiente lì. Signor Sibilia, senti questa cosa qui. Io siccome sto bevendo da una bottiglia di plastica in questo momento, ecco così, bevo, la faccia di Sibilia. E anch'io ce l'ho qua, ha bevuto una bottiglia di plastica. Senti la bottiglia? Bottiglia di plastica. Senti cosa tu dice Sibilia delle bottiglie di plastica. Senti. Come è assurdo dover bere dell'acqua che è all'interno di un contenitore di plastica, contenuta all'interno di un altro contenitore di plastica, che per viaggiare in tutta Italia è avvolta in un foglio di plastica. Questo è sviluppo, signori? Questo non è sviluppo, questa è follia. Beh, non è male questa cosa qua, follia bere da una bottiglia di plastica avvolta della plastica. Il PIL dovrà essere la concezione del PIL secondo Sibilia. Cambiare il concetto di PIL. Prodotto interno lordo non deve essere più prodotto interno lordo, ma si dovrà chiamare felicità interna lorda o benessere interno lordo. Io amo quest'uomo. Ma è con noi Francesco Chiesa Soprani, che è stato è stato socio Francesco Chiesa Soprani. Beh, ma non ce la fa a intervenire tutta sta gente fino alle 8.50, dai. Allora, Francesco Chiesa Soprani è stato, ha lavorato con Fabrizio Corona e ci sta spiegando alcune cose, ovviamente di quello, che dice si assume la totale responsabilità. Allora, Francesco, io voglio capire una cosa. Quando tu parli, hai usato una parola, pianificazione. Tutte le operazioni di Corona, per esempio quella di Trezeguet, sono tutte pianificate per che cosa? Spiegami questa cosa della pianificazione. Allora, si pianificava a priori, quindi in ufficio, si decidevano quali erano i servizi vendibili ai giornali e quali invece erano vendibili non ai giornali, ma venivano direttamente proposte all'interessato, in quanto il discorso remunerativo, quindi i soldi, erano molti di più. Ti faccio un esempio. Sì. Quando abbiamo fatto lo scoop di Bob Ovieri e Melissa Satta alle Maldive, quando Melissa Satta era ancora fidanzata con Daniele Interrante, lei faceva la velina, quindi era un grosso scoop. Quando io passai questa notizia a Corona, avevo le coordinate delle Maldive, eccetera, e lui organizzò il viaggio, andò a fare le foto, sapevamo già che chi avrebbe offerto una cifra alta, infatti fu venduto, penso, se non ricordo male, a 70.000 euro. E quella là non è, quella è una roba normale. Ecco, quindi nessuno si va a pensare di chiamare Bob Ovieri, di chiamare Melissa, dire compratele voi, e questo è un discorso. Altri servizi venivano pianificati con l'intento già preordinato di andare a chiamare l'interessato che veniva fotografato. Cioè quello di Trezeguet come fu pianificato, per esempio? Se si sapeva che Trezeguet ogni tanto, perché non c'è una certezza, frequentava quella discoteca, si appostava in quella discoteca, si mandava il galoppino di turno, comunque chi faceva le foto, che un ragazzo magari ha soldato il giorno prima, non per forza un fotografo, basta fare click con la macchina fotografica in quel caso. Alcune volte Fabrizio cercava di mandare anche delle ragazze sue amiche che potevano abbracciare Trezeguet, per cui poteva sembrare un bacio e di conseguenza poteva poi... Ma è successo questo? È successo non con Trezeguet, in altre situazioni. Con Trezeguet, fortuna vuole in questo caso per Fabrizio, che lui si è portato la bionda da solo e se l'è baciata da solo, quindi ha avuto la pappa pronta per fare le foto. Ma nei momenti in cui si fanno le foto, nessuno ha mai pensato di rivolgersi a un giornale, anche perché il giornale per quelle foto avrebbe offerto 4-5 mila euro, non di più. Allora, se tu andavi a Trezeguet e dicevi guarda, il giornale le compra, sono 5 mila euro, me li vuoi dare tu? Forse poteva essere un gesto in amicizia, ma chiedono i 25 mila, quindi 5 volte tanto. Tu dici che in questo caso è pura estorsione. È pure estorsione, ma l'estorsione non è soltanto venga con una pistola a casa tua e ti dico dammi il quadro che hai in casa o dammi il tuo portafoglio. Estorsione è anche venire con gentilezza e gesti amorevoli e farti capire che se non fai una cosa hai dei problemi. Senti, ma quali sono stati altri casi e altre situazioni in cui hai partecipato tu? Questo lo dice lui sempre. E con che ruolo? Ma guarda, di casi ce ne sono tanti, perché quelli che sono usciti sono marginali rispetto al lavoro e ai milioni di euro che Fabrizio ha fatto. Lui in quel filmato che hai fatto sentire dice che ha pagato 1 milione di euro di tassi come società e 700.000 euro come privato. Io ci metto la faccia, se vuole qualcuno mi denunci, ma come non l'hanno fatto l'anno scorso, non lo fanno quest'anno. Fabrizio Corona in vita sua non ha mai pagato una tassa, non sa cos'è un modulo. Vabbè, qualcuno ha pagato per lui magari al posto suo. Ma ti posso garantire che nessuno, né lui né qualcun altro, ha pagato le tasse, perché come non ha mai pagato una multa in vita sua, penso che abbia qualcuno. No, secondo lei non ha mai pagato le tasse, adesso questo mai, qua. Mai, è evasore totale da quando è nato, ma io dico queste cose non perché ho... Però al di là di questo, di cui ripeto... Se Stano lo difende, deve anche sapere come stanno le cose, non si può qualcosa non sapendo la verità. Ho capito, penso che sia evasore fiscale, lo dici tu, io non lo so, appunto. E ti assumi la responsabilità di quello che dici. Io non... una cosa sulla base di cosa dice questa roba qui lui, che senti, mi fa sapere... Una cosa... Perché c'ero, Parenzo, perché c'ero. Una cosa, Francesco... Come c'era, come fa a sapere i conti che ha pagato lui? Cioè, come fai a sapere che non ha mai pagato le tasse? Appunto, è come se Cruciani dicesse... Parenzo non paga, ma scusa... Ti rispondo, Parenzo. In Viale Monza numero 6 c'ero io, in Viale Monza numero 9 c'era Lele Mora. Vabbè, che Viale Monza, cosa vuol dire? E se mi fai parlare, c'era Fabrizio Corona. Tutte e tre abbiamo avuto un fallimento, tutte e tre abbiamo avuto un procedimento per bancarotta fraudolenta, tutte e tre abbiamo avuto un processo e una condanna. Allora? E ognuno sa dell'altro cosa uno ha pagato e cosa non ha pagato. Secondo te non ha pagato Fabrizio, nulla? No, con me lui si è sempre vantato, e so che è la verità, di non avere mai pagato nulla e di essere evasore totale. Quindi io dico una cosa perché ho frequentato Fabrizio. Va bene, quali sono state le altre vicende in cui sei stato protagonista di queste estorsioni? Di questo sistema, per esempio, citanemi alcuni. Ma ti posso dire, nel 2004, quelli che posso sapere, nel 2004 io ho rischiato di perdere un'amicizia perché, adesso magari poi arriveremo al nome, un noto banchiere, io ero in vacanza con un noto banchiere in Sardegna sulla sua barca, sì. Io ero l'agente all'epoca della velina di Striscia, sì, la Notizia, che si è fidanzata con questo sì, banchiere. Quando io vengo via dalla Sardegna per tornare a Milano per lavoro, loro vengono fotografati e Fabrizio chiede 20.000 euro a questo banchiere, altrimenti sarebbero uscite le foto sui giornali. Siccome questo banchiere aveva in quel momento in atto una fusione o qualcosa di cui ben non voleva, non voleva, e di conseguenza penso... Ma perché tu dici che è estorsione questa roba qua? Perché le foto non sarebbero uscite comunque? No, beh, le foto, dunque, se la persona non paga, se la persona che veniva, a cui veniva chiesto del denaro, non pagava, le foto venivano offerte logicamente ai giornali anche a una cifra irrisoria per avere un bastone d'appoggio, perché nel caso in cui qualcuno ti denunciava, cioè la persona, sì, ho capito. Storgere, tu potevi dire io l'ho proposto. Come si chiama sto banchiere? Questo banchiere con cui poi ho fatto pace, perché ho litigato, perché lui pensava che io avessi detto con Fabrizio dove erano. Vabbè, come si chiama? Come si chiama? È una storia vecchia, comunque si chiama Arte. E Fabio o l'altro? Chi è? Matteo. No, Matteo è Capitalia e Fabio è un'altra cosa, parliamo di Fabio. Fabio Arpe. Altre persone coinvolte in queste estorsioni di cui si sa meno? Chi è? Ma quando, lo dice lui però. Lui. Ma io con Fabio Arpe ho un'amicizia. Poi, dammi un altro nome. Quando hanno liberato Fabrizio Corona dalla prima galera da Valletopoli, sì, per cui anch'io per ma perché le dice oggi queste cose? Scusa, perché le dice oggi così improvvisamente? Ma ascoltami, io le cose le dico quando c'è un motivo per dirle, perché non è che devo essere pagato per dirle o devo avere un vantaggio. Cioè ti ha fatto indignare questa serie? Vedere Celentano che chiede la grazia quando non sa che Fabrizio Corona tra un paio di mesi avrà un processo perché ha violato il domicilio della mamma di Sara Scassi, la bambina trucidata da Vetrana. Fabrizio è entrato da una finestra per rubare foto, per sorgere interviste. Lei ha chiamato. Ma perché sei così avvelenato? Perché sei così avvelenato di mammolette? Perché Fabrizio deve essere uomo, deve affrontare la galera, deve fare l'uomo, ha sempre fatto l'uomo. Va bene, dimmi un altro caso però, dimmi un altro caso. Vabbè, ma tu non sei le orsoline però, neanche tu, eh? No, non è che tu invece sei un santo, allora, uno stinco di santo. L'ambiente è lo stesso, dai, è un ambientino così il vostro, su, amico mio, è un ambientino così il vostro. È un ambientino così, hai perfettamente ragione. Hai preso qualche stecca, hai partecipato anche tu a queste estorsioni, dai, sì o no? Su. No, estorsioni no, nel caso, non so, di Melissa Satta e di Bobovieri sapevo dove andavano in vacanza, di conseguenza ho preso qualcosa del... Vai, dimmi un altro caso, Francesco. Rispondo prima a Parenzo in maniera molto veloce. Io, nei miei problemi, sai cosa ho fatto, Parenzo? Ho preso un avvocato e l'ho pagato, mi ha difeso e mi ha fatto scagionare. Fabrizio, a parte quest'ultimo, in questi ultimi 10 anni, nonostante tutti, compreso sua madre, gli abbia sempre detto paga gli avvocati, non ha mai pagato un avvocato, perché diceva io sono Fabrizio Corona, mi devono difendere gratis perché si fanno pubblicità con me. Vabbè, dimmi cosa è stato, avere tutti questi problemi. Dimmi un altro caso. Un caso che ti posso dire reale, quando l'hanno rilasciato per il primo Valletopoli, sì, quando gettava le mutande dalla finestra, che tutti si ricordano. Sì. Io quel giorno ero a casa sua perché stava registrando il video Corona non perdona, quel disco rapper. E lui mi fece vedere delle foto di una persona a cui poi avrebbe chiesto, io poi in questo caso non so se l'ha fatto, però ho visto le foto e non c'ero soltanto io. E che foto erano? Di chi? Erano dell'ex direttore del Corriere della Sera, di Mieli, con una ragazza su una panchina. E lui voleva chiedere soldi? E lui mi ha detto, con questi mi rifaccio della galera. Poi si è rifatto in altro modo, perché una cosa che Parenza non sa è che Corona ha fatto, grazie anche a me, 85 serate a 10.000 euro. Vabbè, quello per che un totale di 850.000 euro, su cui non ha pagato tasse perché sono in nero, e questo è quello che otterremo quando lo libereremo. Vabbè, diamo la grazia. Quello è un altro discorso, ripeto, sul nero, no, ti assumi la responsabilità di quello che dici. Un altro episodio ancora, perché ci sono diversi episodi, mi avevi detto così quando ci siamo sentiti prima, ti devo raccontare diversi episodi. Qual è l'altro episodio? Ma episodi ce ne sono tanti, poi dobbiamo avere anche il momento per raccontare, perché altrimenti sembra una sequenza di tentate o di presunte estorsioni, che dici tu? Notizia flash dell'ultimo minuto, fermi tutti. Quando... Che è successo? Fermi tutti, notizia, bloccate le autostrade. Che è successo? Tutto fermo, in macchina, bloccatevi. Secondo Dacospia, Nicola Porro non sarà più vice direttore del giornale. Ma chi se ne frega? Ma fermi perché, tutti! Ma chi se ne frega? Ti interrompete, breaking news, fermi tutti! Ma perché? Tutti. Ma chi se ne frega? Francesco da Novara, Marco da Milano, Varese, dai, bloccati in macchina tutti. Dimmi un altro episodio. Forse, Francesco, secondo dimmi un altro episodio. Un episodio che ti posso raccontare è che quando sempre uscì da Vallettopoli e quindi in quel momento aveva difficoltà a fare quello che aveva fatto fino ad allora, forse perché pensava che poteva essere appunto estorsione, chiese a me di andare da una persona a, a chiedere del denaro. E tu ci sei andato o no? No, assolutamente. E chi è questa persona? Mi diede delle foto, delle foto di una persona molto famosa che stava andando in, in, in ospedale a farsi operare al cuore e penso che nessuno. E che foto erano? Foto dentro l'ospedale? Adesso arrivo, Giovanni. Lui, le foto di lui col cardiologo che entra nel reparto di cardiologia. Io e chi era sta persona? Ce li ho ancora, tra l'altro. Beh, era una persona importante. E chi era? Ma, Francesco, ma è un ambiente pazzesco questo. Ma che roba chi è? Chi era sta è... persona? Non ho capito. Chi è? Fai sto nome Flavio Briatore. Senti una cosa, ma perché, ma tu ti rendi conto, Gruciani, che cosa un'ultima siamo? Domanda dobbiamo chiudere. Perché perché Travaglio appoggia Corona? Travaglio appoggia Corona perché Travaglio, anche Giorgio, ha, professionalmente diciamo che ha seguito ed è nato con Indro Montanelli alla Voce, la settimanale, il quotidiano che tu dici che perché lì lavorava. E Vittorio Corona, il papà e marito della mamma di Fabio, ecco, lavorava alla Voce ed era in stretto contatto con Travaglio, quindi... Va bene, devo chiudere, riprenderemo questo discorso un'altra volta. Grazie a Francesco Chiesa Soprani. Andiamo con Donato da Varese. Vai, Donato. No, Donato, messaggio per Giovanni Benincasa e Giorgia. Ma chi se ne frega? Sto ma perché arrivando. Ti devi fare gli affari tuoi? No, Donato perché da mi scrive, mi scrivono. Messaggio per Giovanni. Degli altri non ascoltino. E gli altri si tappino le orecchie. Donato messaggio Varese, per dai. Giovanni e Giorgia, sto per arrivare. Chiudilo. Donato da Varese. Ma la prima cosa che mi viene in mente, il Papa, Papa Bergoglio, no? Il vecchietto che sta lì al Vaticano, no? Vecchietto che sta al Vaticano, sì. Quello lì, io prometto che io sono un cristiano con la città maiuscola. Sì. Quello lì sta lì al Vaticano, vorrei sapere un po' quando promuove tutte queste cose gay, come allora, un ricchione è contro la Bibbia condanna l'omosessualità, quel vecchietto lì ubriaco che sta al Vaticano dovrebbe sapere una volta per tutte che lui è ispirato dalla Bibbia, nella Bibbia c'è scritto che vengono condannati, c'è Sodoma e Gomorra, c'è la storia, no? Quindi beh, Donato, tu sei uno dei giapponesi, dei pochi, già pure Berlusconi si è convertito, sei uno dei pochi giapponesi rimasti sulla terra e ti chiamerò domani per spiegarci la tua teoria su Sodoma e Gomorra e i gay. A domani 18:30. Ciao, vattene Parenzo, vai da Benincasa, va. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare, che avrei corteggiato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Dimmi tutte le cattiverie che vuoi, amore, dimmelo, ti prego, dimmi.